A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Napoli, creatore votata a mezza navi. Napoli, cresciuto che ti fate cucai. Napoli, voglio una casa fanno all'eroi. Napoli, a scuola non ci sono mai potuti. Napoli. E a un certo punto arrivò anche la musica. A un certo punto le periferie, i morti ammazzati, la monnezza e la camorra entrarono anche nella canzone e Napoli non fu più soltanto o paese do sole e do mare, non fu più soltanto la città dell'amore e della nostalgia, ma di lì a poco nella melodia divenne pure Gomorra City con tutte le sue piaghe. E sia o buono che o malamente, sia il buono che il cattivo trovarono spazio nelle note dei primi gruppi impegnati e di lì a poco di sempre più voci, fino al massimo della consacrazione popolare sul palco di Sanremo con Rocco Hunt. Contemporaneamente però alla musica che narrava O Sistema, come da un certo punto in poi è stata chiamata la camorra, è aumentata anche la musica Do Sistema, quella che il capoclan lo celebra perché deve essere rispettato, quella che il latitante lo compiange perché è costretto ad una vita in fuga, quella che insomma la camorra la esalta, tanto da finire anche nelle inchieste della magistratura, come è successo a non pochi cantanti neomelodici. Dopo anni di silenzio è divenuto dunque ampio e variegato il Camorra Sound, titolo di un viaggio che il fondatore degli A67, gruppo rock di Scampia, ha voluto fare nel tempo e nelle note, trasformandolo in un libro e in un interrogativo. Voi dove eravate prima? Si chiede e chiede a tutti gli altri musicisti napoletani Daniele Sansone degli A67. Una musica che nasce come risposta naturale di un contesto sociale difficile, quale Scampia, ma resta una musica. A me le etichette non piacciono, cioè nel senso che va bene musica anticamorra, ma innanzitutto facciamo musica. E per, in realtà poi ci siamo occupati tantissimo anche di camorra, ma la musica è a 360 gradi e parla di tutto. Quindi però nasce, come dicevo prima, da un contesto sociale difficile ed è quasi una risposta naturale a quel magma complesso che è il quartiere di Scampia. Cioè diventa imprescindibile, diciamo, fare musica e parlare del contesto da cui quella musica nasce. Ma sicuramente di quella fetta di persone che è stretta tra la morsa della mancanza del lavoro e la presenza del sistema, della camorra, e quindi cerca di trovare delle soluzioni per campare quotidianamente la propria vita nel migliore dei modi. La camorra son dica tu ma grinda vuoi chiuso anche che l'accesa va scaglia e lacrime chi sugge. La camorra son dica tu ma grinda vuoi chiuso anche che l'accesa va scaglia e lacrime chi sugge. E chi succede? Si ha paura a fare una dignità facendo tonda, tonda, tonda, tonda, tonda, tonda. In questo senso Camorra sono io, che è il primo nostro album, nasceva appunto per sottolineare l'aspetto culturale del fenomeno criminale, che spesso è sottostimato, ma che non è meno importante di quello economico e criminale delle organizzazioni criminali. E quindi in questo senso la musica può fare tanto. La musica fa presa, la musica coinvolge, la musica, diciamo, entra nella testa soprattutto dei giovanissimi. A Camorra son ghio, ossia la camorra sono io, fu anche una risposta, tu scrivi nel tuo saggio, a O buono e O malamente. Che cos'era O buono e O malamente? E che cosa possono essere, adesso andremo a raccontare alcuni diciamo anche aspetti anche più problematici, più al limite, o che a volte hanno superato anche il limite della legalità di alcuni aspetti musicali anche napoletani, da cominciare da alcune frange dei neomelodici di cui si parla tanto spesso. Ecco, ma che cosa vuol dire quando tu scrivi che questa vostra canzone A Camorra son ghio era una risposta a O buono e O malamente? Chi sono O buono e O malamente? Ma O buono e O malamente sono due, diciamo, attributi per identificare il cosiddetto buono e il cattivo. Nello specifico si tratta di una bellissima canzone degli Alma Megretta, gruppo storico del movimento Posse degli anni 90 napoletano, gruppo che ancora esiste e che ha fatto... Gruppo impegnato. Impegnatissimo, e soprattutto sull'integrazione razziale e sui temi del razzismo, e in questo senso io mi ricordo che per esempio mi ascoltavo tanto, ho amato tantissimo e amo ancora quella musica, e facendolo ascoltare al mio migliore amico c'è un passaggio in cui si dice: e allora che volete, si venga a cucain, si voglia sta pure con i figli dei signori, e che non arri in da sacchi, che vestito buono. Cioè, allora che volete, se vendo anche io la cocaina, se voglio stare pure io come il figlio del signore, con i soldi in tasca e i vestiti buoni. Perché appunto questa canzone cercava di fotografare un momento storico, quello di Tangentopoli, dove appunto venivano visti buoni quei politici corrotti che magari rubavano milioni e milioni di vecchie lire, e invece lo spacciatore del quartiere veniva criminalizzato e additato come un malamente. In questo senso, ecco, io... però queste sono parole di una canzone, la musica è musica, ma la musica può anche avere, anche diciamo raggiungendo moltissime persone, moltissimi giovani, entrando anche con la forza delle note e anche con la forza coinvolgente della melodia, che è tanto più forte quanto più determinate e ampie schiere di persone si riconoscono nelle parole di quelle canzoni, ecco, ha anche un effetto non secondario. Esiste tutta una musica del sistema di cui tu parli. Ecco, c'è la musica laddove da un certo punto in poi sistema è diventata la parola per indicare la camorra. Si parla tanto spesso della musica di cui in qualche modo il sistema si serve, perché è la musica che celebra il sistema, dai neomelodici in poi, alcuni di essi o meglio, fino ad alcune canzoni che sono diventate e sono entrate anche in inchieste della magistratura, perché sono diventate veicolo di messaggi. Davanti a una canzone tipo O Capo Clan, quali sono diciamo anche i rischi che tu vedi in questo tipo di diffusione di musica? Il problema è che a Napoli la canzone è qualcosa di molto importante, probabilmente lo strumento culturale per eccellenza, attraverso il quale la società si autorappresenta. Da sempre la canzone ha raccontato gli umori, le dinamiche, le trasformazioni della città. E la popular music, come dicevi prima, è una delle diciamo più potenti forme di comunicazione, nella misura in cui arriva alle nuove generazioni, dialoga con quello che sarà il nostro futuro. E le influenza, costruisce l'immaginario collettivo di queste generazioni. Di conseguenza, se una persona un giorno si sveglia e canta un Capo Clan elogiando le gesta di un boss, diventa una narrazione rischiosa. E infatti nel 2004 Nello Liberti, che appunto cantò questa Capo Clan, è finito sotto inchiesta per istigazione ai reati di camorra. Ecco, che è un'inchiesta, è una canzone dove esplicitamente si invita al rispetto il Capo Clan. Resta il Capo Clan, uno che sa vivere, un uomo serio, che è cattivo e non è ovvero, scrive questa canzone. Più esplicito di così non si può. È la celebrazione dei valori della camorra. Esattamente, però io in Camorra Sound, nel mio libro, che ricordiamo è un'inchiesta diacronica che parte dagli anni 70 per arrivare a oggi, per capire come e quando la camorra è entrata nella canzone popolare napoletana, ho cercato di invertire un po' il ragionamento. Cioè, se la prima associazione che si fa pensando al rapporto musica camorra sono i neomelodici, io mi sono chiesto dov'era la cosiddetta musica impegnata. Con questo che voglio dire? Che io riesco a capire un ragazzo che è cresciuto senza strumenti, se non è andato a scuola, con una famiglia disgregata alle spalle, che è cresciuto in un quartiere dove la camorra è un elemento naturale, che possa in qualche modo cantarla, addirittura farne apologia, perché vive quel contesto, canta e vive ciò, cioè vive ciò che canta e canta ciò che vive. Ma per esempio tutta la musica impegnata invece di estrazione borghese, che ha avuto la possibilità di studiare e che mi viene a parlare di Desaparecido, della Palestina, di Victor Jara, di storie, luoghi e personaggi rispettabilissimi ma lontani da noi nello spazio e nel tempo, allora credo che questa domanda dove eravate mi sembra abbastanza legittima. Cioè tu ritieni che, questa è una domanda che a un certo punto si era fatta anche Roberto Saviano nel proposito del processo Spartacus, delle faide di Camorra e del silenzio anche dei media nazionali intorno al più importante maxi processo intorno a clan dei Casalesi che si è celebrato appunto a Santa Maria Capua Vetere. Quella domanda, dove eravate? Ecco, tu la rivolgi ai tuoi colleghi musicisti, cioè secondo te c'è stato un momento in cui la musica, la canzone napoletana, da sempre specchio della città, ha preferito guardare lontano ai drammi appunto della Palestina piuttosto che alle difficoltà che aveva al suo interno? Per quale ragione? Ma in realtà le ragioni sono, io credo, diverse. Si tratta comunque di un problema molto complesso, nel senso che la Camorra, io parto dagli anni 70 per arrivare a oggi, la Camorra negli anni 70 era una cosa, negli anni 80 un'altra, nei 90 ancora un'altra, oggi ancora un'altra. Parallelamente è cambiata la nostra percezione del fenomeno criminale, così come è cambiata la canzone impegnata napoletana e l'urgenza comunicativa di quest'ultima. Il capo clan è un uomo serio che è cattivo, non è vero. Sono i versi di una canzone neomelodica, ma sono stati anche la base di un'accusa per istigazione ai reati di Camorra per Nello Liberti, la voce di questo inno al boss. Note che vengono sentite da migliaia di persone nelle piazze, nelle esibizioni, durante le cerimonie, nei concerti di alcuni cantanti neomelodici. Note che influiscono nella creazione di un'aura mitologica del capo clan che in alcune zone dispone della vita dell'intero quartiere. Ecco che allora O Sistema si trova nella canzone popolare napoletana tra giustificazioni, esaltazioni e condanna, come scrive Daniele Sansone. A ciascuno il suo. La serie ha cominciato a strada lunga da paura che non sai si può fermare. La valigia fatta in fretta, il ricordo di un amore che non posta insieme a te. E che l'occhio del creatore non aveva la ragione da parattiva solo tu. La musica è malinconica, la voce calda, la scena descritta con dettagli strappalacrime, i bambini che vedono il padre partire da solo e non capiscono il perché. Da allora per loro resta un'assenza, la consapevolezza di una fuga, l'attesa di un segnale, per lui invece una stanza chiusa dove non si aprono le porte e una vita in fuga dalla gente. È la vita del latitante che non tiene niente, canta Tommy Riccio, è la vita di quei camorristi che scappano dallo Stato e si nascondono in genere in bunker sotterranei dove passano giornate reclusi come topi. Ma come un eroe perseguitato, il latitante viene celebrato in questa canzone, divenuta ben presto altro emblema di quella musica neomelodica trasformata da alcuni in colonna sonora e in inno delle geste dei clan. È la parte più rumorosa e più contestata del Camorra Sound, la voce che talvolta racconta, altre esalta o giustifica, altre ancora condanna la malavita organizzata napoletana. Camorra Sound, come il titolo del viaggio in pagine affrontato da Daniele Sansone, cantante degli A67, gruppo di Scampia, che per primo sentì la necessità di guardarsi intorno e mettere in musica la vita all'ombra delle vele con una Camorra songhio. E ora si chiede, dove erano tutti gli altri prima che la Camorra diventasse fenomeno internazionale, prima del successo di Gomorra e dell'attenzione dei media, quando però i lenzuoli bianchi venivano a centinaia stesi sui morti ammazzati? Da un certo punto in poi, però, Napoli riprese la sua tradizione di vita col racconto e cominciò a cantare anche questa faccia, quella più lontana dalla cartolina di Posillipo, come analizza Sansone. Negli anni 70 la Camorra era essenzialmente una succursale della mafia, contrabbando di sigarette. Perché tu ritieni che ci sia stata una mancanza di impegno e di interesse da parte anche di molti autori napoletani? C'è un legittimo sentimento di paura di fronte, per esempio, alla faida tra la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la cosiddetta nuova famiglia che miete in 3 anni 1500 morti, cioè credo sia naturale avere paura. Però dall'altra parte credo che ci sia una serie di concause che hanno portato a questa mancata presa di posizione, non soltanto l'omertà ma anche un disinteresse nei confronti di un tema probabilmente già codificato dalla sceneggiata per esempio di Pino Mauri e Mario Merola e poi in un secondo momento dai cosiddetti neomelodici. E poi c'era anche la voglia di non compromettersi, no? di non chiudersi delle strade. E quando invece è cominciata una diversa percezione e un diverso impegno anche musicale nei confronti dei temi della legalità e della lotta alle mafie a Napoli? Intorno agli anni 90 abbiamo i primi segni. Da una parte una musica, diciamo, come la musica vostra degli A67, la musica dei 99 Post, degli Alma Megretta, che anche se sono generi diversi, dall'altra l'esistenza di un fenomeno come quella delle canzoni, dei neomelodici, che appunto, dicevamo prima, sono diventati una voce anche proprio interna al mondo della camorra. Questo inevitabilmente è uno dei punti, diciamo, più delicati e più sensibili anche di Camorra Sound. E che ruolo hanno all'interno di certe realtà napoletane la musica di alcuni neomelodici? Ciò che lega poi realmente la canzone neomelodica alla camorra è l'esigenza di esibirsi live. Chi gestisce tutto il mercato dei live, quindi delle cerimonie, il suonare all'interno delle cerimonie, dei matrimoni, nelle feste di piazza, è un mercato gestito interamente dalla camorra. Bisogna dire che poi la canzone di Mala, che fa apologia della camorra, è una ristretta produzione rispetto all'universo incredibile della canzone neomelodica, che è fondamentalmente una canzone d'amore. Però, una canzone popolare che racconta popolare, la vita dei bassi napoletani. Però poi ci sono casi in cui si fa vera e propria apologia, ma ripeto, sono cresciuto a Scampia, cioè per me la presenza del sistema, della camorra, del boss, dello spacciatore, della sentinella, del killer, è una presenza costante, appartiene al mio mondo. Quindi naturalmente se io scelgo di cantare e non ho strumenti culturali, si può capire che queste persone possano cantare anche questa realtà, perché è una realtà che vivono ogni giorno. Quanto è potente, diciamo, anche nell'arruolamento, passami questo termine, anche dei più giovani rispetto alle dinamiche dei clan, la diffusione di certe canzoni neomelodiche? Sì, racconta un mondo, se si è attratti da quel mondo, la colonna sonora di quel mondo è questa musica qui. Ma sono anche un interessante fenomeno economico, dove girano i soldi ci sono gli interessi della camorra, vanno a cantare in matrimoni, in alberghi, diciamo, che rispondono a certi cliché, ricordiamo tutti, anche quello finito nell'immagine reality di Garrone, ecco, e dove ci sono interessi economici di ogni genere, c'è un interesse e c'è un controllo della camorra. Se poi entri in quel sistema e ti chiama il boss di turno a suonare al matrimonio, tu non puoi rifiutarti, cioè ci devi andare. Ripeto, io quello che ho cercato di fare all'interno del mio libro Camorra Sound è cercare di capire anche dall'altra parte cosa si è fatto. È facile prendersela con i neomelodici, ma la cosiddetta borghesia napoletana, cioè dov'era, dove stava? È come se, diciamo, la musica napoletana, quella impegnata, avesse di fronte a sé come una sorta di bivio: da una parte un impegno sociale, dall'altra il rischio di una legittimazione della criminalità stessa, come pur si scrive in Camorra Sound. Basta una semplice parola spesso per raccontare in un modo o in un altro lo stesso tema. Pensiamo anche all'ultima, alla serie Gomorra, la fiction che ha creato un po' di polemiche, no? Oppure perché è finita anche la fiction Gomorra, cioè è finita a sua volta all'interno di un'inchiesta per un problema degli affitti pagati proprio alla famiglia di un capoclan. Assurdo. Però laddove siamo consapevoli che l'arte ha un potere simbolico enorme, credo che chi ha la fortuna di parlare a tanta gente dovrebbe sentire il peso, la responsabilità di questo strumento. Ecco, tu tra le tante persone che hai incontrato, voci celebri anche della canzone napoletana, ad esempio hai incontrato anche Nino D'Angelo, che viene un po' considerato uno dei precursori della canzone neomelodica. Lui che cosa ti dice? Come racconta questo cambiamento di un fenomeno musicale e culturale napoletano? Lui dice che la vera canzone neomelodica è quella che canta l'amore, e che queste canzoni sono una sorta di degenerazione, che non hanno nulla a che vedere con gli inizi e la reale canzone neomelodica. C'è anche Pino Daniele che a un certo punto dice: la canzone neomelodica che canta la camorra c'è, così come c'era con Pino Mauro e Mario Mero nella sceneggiata, perché c'è la camorra. questa organizzazione criminale direttamente e indirettamente crea un sistema di valori, e questo sistema di valori può essere anche cantato. Però a questo punto, in quest'ottica, può e deve essere inteso come un segnale positivo la nascita invece di gruppi di vario tipo di musica, oppure di rapper che affrontano il problema senza allo stesso tempo diventare megafoni di quella cultura. Gli A67 sono stati i primi a dedicare un intero concept album all'organizzazione criminale con A Camorra Songhio, un anno prima dell'uscita di Gomorra. Poi Gomorra ha in qualche modo creato e inflazionato il mercato dell'industria culturale. Da lì si sono moltiplicati libri, dischi, film sul tema. L'aumento delle voci che riflettono, che cantano le realtà sociali difficili e gli effetti anche della presenza della camorra su Napoli, sui quartieri più periferici, che hanno delle ricadute anche rispetto alle tante persone che li ascoltano. Sì. Rocco Hunt va a Sanremo con una canzone che parla della Terra dei Fuochi, magari il ragazzo che non aveva mai riflettuto su questo tema e che segue Rocco Hunt inizia a pensare, a capire, ad informarsi, a capire di cosa si tratta. Da un punto di vista invece storico, nel tuo percorso, nella tua analisi sulla Camorra Sound, quando la musica ha cominciato ad interessarsi della Camorra? Intorno agli anni 90, dopo aver metabolizzato la ferocia della nuova Camorra organizzata, solo allora si inizia a prendere coscienza del problema e a citarlo. Per esempio ricordo una canzone bellissima di Frankie Energy, che si chiama Fight the Faida, dove condanna senza mezze misure l'assenza dello Stato e invita il Sud a ribellarsi alle organizzazioni criminali. Prima c'era stata una canzone di Capone che si chiama O Boss, e poi anche i Gang, la rock band marchigiana. Paradossalmente ho scoperto in questo lavoro che i primi a parlare di mafia e musica non sono stati né dei calabresi né dei napoletani, né dei siciliani, bensì dei milanesi, e cioè i Giganti, con un bellissimo disco del 1971 che si chiamava Terra in Bocca, un'opera rock nata da un fatto di cronaca successo nel 1936 in Sicilia. Quindi diciamo che è un lavoro complesso che mi ha dato la possibilità di capire tante cose, di conoscere tante cose. Spero che arrivi anche alla gente. Se Daniele fosse stato un cantante neomelodico, avrebbe concluso probabilmente questa chiacchierata mandando un abbraccio circolare a tutti. Lo fa invece con le sue parole di Camorra Sound e con le note. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ma voi che cosa ne pensate del ruolo della musica nel consenso che le mafie hanno? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.